altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Vi insegnerò l'amore, a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per 16:09. Ricordatevi il libro di storia, noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione. Comincia una nuova puntata dell'Ora di Buco, qua sugli 87.9 di Onda Rossa. Allora, se volete partecipare in diretta, il numero di Onda Rossa lo conoscete, lo 06 49 17 50, altrimenti per le trasmissioni, opinioni o contatti c'è il blog che è oradibuco.noblogs.org, giusto? Giusto, giusto. Okay. Tanto salutiamo la parte della redazione, la maggioranza che oggi non è in radio. E quindi ci sono io, sì. La scuola l'ho finita un po', però vi vengo ad aiutare. Sì, infatti. Impegnati nel studio, riunioni, visite mediche, eccetera. E le notizie sono importanti perché la scuola è ancora sulle prime pagine dei media, e con una novità che è emersa sabato 18 aprile durante la manifestazione dei CGL, CISL, UIL, SNALS, Gilda, manifestazione a cui partecipavano le RSU, cioè le rappresentanze sindacali di questi cinque sindacati, che non avevano proclamato lo sciopero, e che a Roma hanno dichiarato invece che la loro opposizione al DDL Renzi, la buona scuola, e di cui abbiamo già ampiamente parlato, e i cinque sindacati, il pentasindacato ha dunque dichiarato uno sciopero generale per il 5 maggio, uno sciopero che dichiarano che è unitario, ovviamente, e i giornalisti hanno giusto contato quanti anni sono passati dall'ultimo sciopero unitario di questi cinque sindacati, e sono passati 7-8 anni, scusate. Renzi ha già replicato che la scuola non è dei sindacati ma è delle famiglie. A fine trasmissione magari scopriremo di quali famiglie sta parlando. In realtà oggi vorremmo discutere con alcune interlocutrici appunto sia di questo sciopero sia di tutte le iniziative, la mobilitazione che fine aprile e tutto il mese di maggio vedranno impegnate le lavoratrici e i lavoratori della scuola, visto che il prossimo sciopero proclamato già da diverse settimane è quello di venerdì prossimo, 24 aprile, indetto da USB, Unicobas, Sly Cobas, Orsa, ANIEF, USI autoconvocati delle scuole di Roma e CUB, e poi altri scioperi sono previsti oltre a questo, quindi il 5 maggio e il 12 maggio, i tre scioperi, in realtà l'ultimo dei quali è il 12 maggio, indetto ormai da inizio anno dai Cobas in occasione delle prove Invalsi. Quindi adesso un attimo di musica e sentiamo la prima interlocutrice. as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Riprendiamo la trasmissione, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, abbiamo qui in radio una ospite, Elena degli autoconvocati CPS, coordinamento precari della scuola, e con la quale vorremmo un po' fare il punto di tutte le iniziative a Roma, ma anche nazionali, previste per i prossimi giorni per opporci al DDL Renzi, al disegno di legge sulla scuola. Benvenuta, ciao. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Avete fatto diverse riunioni in queste settimane, molti incontri, perché la preoccupazione è altissima, visto che i contenuti del DDL Renzi sono preoccupanti. Raccontaci qualcosa. Allora, io innanzitutto volevo fare un po' un briefing di tutte le iniziative che ci sono in questo periodo, perché c'è grande fermento e grande mobilitazione, giustamente, visto la gravità di questo DDL. Allora, il 22 aprile c'è un'assemblea del 7° municipio delle scuole di Roma all'Istituto Piaget in via Nobiliore alle 17:30. Poi, in ordine di cronologico, in ordine di tempo, il 23 aprile alle 17 c'è la scuola un bene comune, un'altra assemblea alla scuola primaria Grazia Deledda, perché in queste assemblee dei coordinamenti anche delle scuole vediamo coinvolti anche i genitori finalmente, e questa è una cosa molto importante in quanto la scuola entra nelle famiglie di tutti gli italiani e le italiane, e comunque se ne devono interessare tutti, perché la scuola è di tutto il popolo, dei bambini e quindi dei genitori. Poi ci sarà un flash mob sempre il 23 alle 20:30 nella scalinata di Trinità dei Monti, e lo sciopero del 24 aprile che appunto, come dicevi prima, è stato indetto da Unicobas, CUB, USI, autoconvocati della scuola, ANIEF, ORSA, SLAICOBAS, SAB e USB. E poi ci sono varie iniziative pure il 5 e il 6, scioperi indetti dai COBAS antimbalzi, a cui anche la CGIL sembra che aderisce, e questo del 5 è sentito proprio come uno sciopero molto unitario, molto grande. Noi li appoggiamo tutti, sono tutti importanti, questo perché coinvolge le prove antimbalzi. Il 5, diciamo, nella scuola, sì, mi pare primaria. Sì, quindi primaria è sentito molto perché è molto importante. Mentre il 12 è quello delle, sì, prove invalsi della secondaria, delle scuole superiori, e quindi diciamo coinvolge un po', sì, gli studenti medi e superiori. Quindi tu dici che CGL appoggia anche quella del 12? Vabbè, poi del 12 ancora non si sa, però il 5 maggio la Camusso comunque ha, sì, anche perché poi è quello, diciamo, generale, quello nazionale, quello che, sì, ha fatto più scalpore, perché appunto era da diversi anni che non veniva indetto. Sì. Peraltro ho letto che il 24, che c'è una manifestazione nazionale, in realtà sono tre le iniziative in contemporanea, cioè dalle ore 10 c'è a Piazza della Repubblica. Piazza della Repubblica, concentramento, poi dopo c'è un presidio alla stessa ora al ministero, davanti al ministero, e poi un sit-in, un presidio a Montecitorio, davanti a Montecitorio, mi pare nel pomeriggio dalle 15 alle 18, quindi diciamo che è una, sì, è una un'escalation diffusa, anche perché in realtà è una risposta forse all'escalation della rapidità con, sì, cui la rapidità dell'iter della legge, prima alla Camera e poi in Senato, perché diciamo entro un mese forse Renzi ha intenzione di liquidare, sì, tutta, sì, la scuola. Sì, sì, sì, entro un mese, questi sono i tempi che si sono prefissati. Noi siamo contrari ovviamente, perché eravamo più propensi a una discussione parlamentare sul DDL più lunga e dibattuta in Parlamento, e poi di mettere da parte invece le assunzioni con un decreto, sì, interministeriale che potesse assumere i precari subito, scorporandoli, mettendoli da parte dalla discussione parlamentare del DDL, che è più giusto che venga discussa in tempi meno rapidi e appunto più lunghi. Purtroppo però questo è stato respinto dal governo, sì, e in commissione è stato votato proprio la settimana scorsa, martedì avevamo dato notizia del fatto che in commissione era stato bocciato questa idea di appunto prima facciamo le assunzioni, anche perché ci sono quei tempi tecnici, sì, per poter poi dopo il primo settembre di quest'anno poter partire con le assunzioni e poi discutiamo di tutto il resto. In realtà tutto, come poi tutti i documenti dicono, in realtà Renzi vuol far passare tutto il pacchetto con il ricatto, se vogliamo, con l'esca delle assunzioni. Quindi diciamo la timidezza, ci permettiamo di dire questo, con cui molti sindacati, i principali sindacati, hanno reagito a tutto questo percorso di Renzi da settembre dell'anno scorso fino a oggi, in realtà era dovuto al fatto che forse il numero delle assunzioni era talmente così alto che nessuno poteva, come dire, contrastarlo, opporsi. Però poi, dopo, certo, andando a vedere nei fatti, diciamo le condizioni per avere queste assunzioni sono talmente alte che come dire, la perplessità è fortissima, la preoccupazione, certo, è alta, perché veramente questa, anche se non voleva essere una riforma, è un cambiamento radicale ma innegabile negativo, non come sostiene la nostra ministra, certo, e anche il governo, su che tipo di lavoro poi andremo a fare, perché quello che avevamo detto è che invece di stabilizzare i precari, precarizzi già quelli stabili, e quindi, certo, con gli albi territoriali, la chiamata diretta, e poi adesso semmai entreremo ancora nel merito, perché magari c'è qualcuno o qualcuna che ci ascolta per la prima volta. In realtà il pacchetto completo è veramente, veramente pesante, è in direzione del Jobs Act sostanzialmente, da delega in bianco al governo per scrivere in materia di scuola e rivoluzionare, ovviamente sappiamo in quale direzione, il lavoro di chi sta dentro la scuola, e quindi i sindacati si erano un pochino fermati. Quello che volevo chiederti è, dalle vostre discussioni è venuto fuori che questo DDL è emendabile, cioè potrebbe passare con delle correzioni, come sta avvenendo un po' fuori, oppure da alcuni settori del PD per esempio, oppure come altri sindacati dicono, e in realtà va respinto in blocco, se questa è l'idea che le assunzioni dipendono esclusivamente dal tipo di lavoro che poi andranno a fare gli insegnanti? No, secondo noi autoconvocati della scuola è assolutamente da respingere in toto, perché cioè veramente implica un cambiamento epocale nella scuola, di fatto stigmatizzando la chiamata di diretta degli insegnanti, dando potere ai presidi. Ma questo non è un modo di dire, cioè non è che cambiando la formula cambia la chiamata diretta, no, la chiamata è proprio quella, perché questi albi territoriali saranno su base distrettuale, quindi ogni distretto che comprenderà 15-16 scuole, e noi faremo parte con il nostro curriculum di un albo e saremo chiamati in base al nostro curriculum e al fabbisogno della scuola dal dirigente d'istituto. Il dirigente d'istituto può appunto farsi il suo cerchio, il suo entourage di insegnanti come gli pare, certo, chiamandolo anche da altri albi. E quindi anche se il PD, alcuni sindacati, altri appoggiano questo DDL come emendabile, si può cambiare qualcosa, non tutto è negativo. Secondo me è tutto negativo, perché era una garanzia della libertà di istruzione, che era così una cosa delicata e fondamentale per il processo di educazione, per il processo di istruzione e apprendimento delle giovani menti, il fatto che noi insegnanti fossimo chiamati da una graduatoria trasparente, provinciale, nazionale, in base al concorso, ai titoli, eccetera, eccetera, i punteggi, l'anzianità di servizio, cioè era una garanzia di trasparenza ed era un far circolare un sapere in modo molto libero, cioè. Sì, quindi uno non aveva un padrone a cui rispondere. No, adesso sì, se sono antipatica a un preside è chiaro che non mi chiamerà, se sono antipatica a un altro non mi chiamerà. D'altronde, nessuno dà il potere a questi presidi, non si capisce perché poi i presidi questo potere non se lo prenderanno, no? E quindi voi pensate che cioè, noi infatti abbiamo fatto notare che in uno dei paesi, anzi credo il paese più clientelare dell'Occidente, dell'Occidente caucasico avanzato, noi siamo quelli con un livello di corruzione al massimo, quindi non vedo come potrebbero essere trasparenti questi sì, arbitri. In realtà sì, si parla così molto vagamente di criteri pubblicati online, magari perché online va molto, ma della cui obiettività o trasparenza o mancanza appunto di logiche clientelari, cioè, c'è tutto da discutere, anzi la certezza è quasi matematica. Io credo, sì, scusami se ti interrompo, che sia fatto tutto in funzione del taglio alla spesa, perché in questo modo io mi faccio il mio entourage di insegnanti, li chiamo, non devo dare giustificazione a nessuno, li chiamo quando voglio, li chiamo come voglio, sulle classi di concorso che ho bisogno, cioè io me la suono, me la canto, decido io tutto, quindi non... Sì, infatti poi questi, tra l'altro dobbiamo specificare che sono coinvolti tutti, sì, i docenti e tutte le docenti, perché secondo questo disegno di legge vanno nell'albo territoriale, quindi in questo buco nero dal quale ogni dirigente attinge a, così come vuole, non soltanto i neoassunti, ma anche i docenti in mobilità. I docenti in mobilità, prima o poi, certo, chiunque, no, può essere chiamato, sì, a cambiare scuola, sì, per mille motivi, e quindi diciamo che da, se passasse il disegno di legge, cambierebbe completamente l'idea di, appunto, come dicevi, sì, graduatorie trasparenti e mancanza di padrone, perché comunque un insegnante, pur non essendo libero, perché il mestiere dell'insegnante a mio avviso è quello più controllato tra tutti, perché tra gli studenti che stanno in classe, i ragazzi e le ragazze, i genitori, i colleghi, lo staff, la dirigenza eccetera, non è che l'insegnante fa quello che gli pare, no? E quindi sembra, certo, che adesso la soluzione della, per la scuola sia un, sì, insegnante che dipenda sia vita e morte sostanzialmente da questa persona così illuminata. Certo. Che è il dirigente scolastico. Intanto i soldi diminuiscono sempre. Sì, infatti, quello volevo dire. In realtà anche nel nuovo DEF, ecco, in realtà, sì, sì, dimmi, anche tu hai notizie. Appunto, il documento di programmazione economica approvato il 10 aprile dal Consiglio dei Ministri, appunto, è previsto un calo della spesa per l'istruzione, sì, dal 3,7% al 3,3% nei prossimi 15 anni. Quindi nel DDL l'organico dell'autonomia, perché tutti i nuovi assunti rientreranno nell'organico dell'autonomia, è determinato nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Quindi la spesa per l'istruzione è sempre più diminuita. Sì, sì, no, infatti alla faccia delle parole, delle dichiarazioni che dicono che finalmente c'è un governo che investe. No, Nella scuola, in realtà mi viene in mente la famosa battuta di Troisi che dice uno è stato investito, sì, ma dal pulmino. I dati dicono proprio questo, che il rapporto degli investimenti della scuola rispetto al PIL sono il 3,5% e che negli anni è destinato anche addirittura a scendere. Sì. E quindi non si tratta di investimenti, certo Renzi sbandiera questi 200 milioni di euro da dare in mano ai dirigenti o al consiglio d'istituto, cambia molto molto poco, per premiare appunto il suo staff, i suoi, sì, preferiti, diciamo il cerchio magico, sì, che sono sempre ridicoli se vogliamo, ma comunque è un dato preoccupantissimo, perché come dire, si continua a bloccare il rinnovo del contratto, ma la parte stipendiale, dico, la ricostruzione delle carriere vanno a rilento, perché altrimenti devono pagare tutti gli arretrati, tutti, certo, di più, e quindi diciamo che anche esaminando i dati, l'investimento, i soldi per la scuola pubblica non, ma ci sono. La buona scuola è molto chiara, apre la porta ai privati nelle scuole, parla di fondazioni, di privati che entrano, abbiamo i progetti già con la COP, nella mia scuola abbiamo la LIM della COP, oppure la CONAD, raccolta CONAD, raccolti punti di CONAD, sì, Fondazione, sì, Roma. E quindi già ci sono i privati nelle scuole, ovviamente, cioè, facciamo i progetti della COP in classe. È chiaro, non potrà mai dire nulla, cioè, contro la COP, sono se quella che ti paga queste cose, la carta igienica in alcuni, appunto, casi. Ma poi ritengo anche che non sia giusto che i genitori pagano carta igienica, libri, cioè devono pagare pure le LIM, cioè io infatti invito la popolazione dei genitori pure a prendere atto di queste modificazioni nelle leggi che vanno contro i propri figli. Sì, perché dietro a queste aperture, no, che si dice, allora finalmente entrano i privati nella scuola, possiamo sovvenzionare, in realtà si nasconde un disimpegno dello Stato, certo, e quindi lo Stato sta abdicando, perché non ci sono soldi, siamo proprio sicuri che non ci siano soldi per la scuola, se la scuola è il punto fondamentale, così dicono, no? E della società, dell'Italia, e gli insegnanti e le insegnanti addirittura degli eroi, no? A volte veniamo descritti pure come gli eroi. e poi veniamo trattati in questo modo. Quindi le parole utilizzate da Renzi e dal suo staff in realtà sono mascherano, come abbiamo già detto, fumo negli occhi, e mascherano, ripeto, un disimpegno, un'impostazione che abbiamo definito come dire di tipo anglosassone, no? Quindi diciamo sì, la finanza, sì, cioè, Confindustria, sì, poi adesso vedremo, no? Che entra, sì, dentro la scuola, perché la scuola, sì, è un grande bacino, no? Questo, di clienti. Sì, stiamo copiando questo modello di istruzione anglosassone americano, ma innanzitutto c'è un'inversione di rotta adesso in questi paesi, quindi loro lo stanno rivedendo e noi, sì, lo copiamo. Esatto, sempre in ritardo. Quindi. Noi sempre le brutte copie. Tra l'altro poi ogni sistema è basato sul proprio territorio, su dei canoni e delle caratteristiche territoriali, quindi se il nostro era tipico e buono, cioè le scuole elementari fino a poco tempo fa erano le seste migliori, eravamo nella classifica alla sesta posizione in Europa, quindi c'era un motivo, cioè secondo me si doveva puntare su le cose che abbiamo e su quello che era già in positivo, non fare una brutta copia per noi sponsorizziamo anche la LIP, che è la legge di iniziativa popolare che sta in Parlamento, e per ora lì rimane, perché non ci sono molti parlamentari che... Era una legge fatta da insegnanti, sì, non, sì, andava, certo, bene, chiaro, giustamente. Senti, ci prendiamo un attimo una pausa e poi ritorniamo. Riprendiamo la trasmissione con una telefonata. Pronto? Sì, ciao, sono Fabio, io insegno, anche io faccio parte degli autoconvocati qui a Roma. Ciao. Stavo ascoltandovi e chiaramente la collega sta insomma spiegando bene, il resto sono cose che già conoscete. Qual è la diciamo la ricaduta su noi che ci lavoriamo nella scuola, però appunto vi ascolto da anni, ho una certa età, onda rossa, e mi veniva in mente anche, voglio dire, adesso al di là della questione di noi lavoratori, gli studenti, ma se si pensa a quanta importanza ha avuto la scuola nel processo democratico degli anni 60 e 70, se questa riforma attuata si ritornerà alla scuola di classe degli anni 50, dove il massimo della libertà saranno quei fenomeni di goliardia studentesca, diciamo così, che erano tollerati dal sistema, perché sarà completamente annullata la libertà di insegnamento, come stavate dicendo, e quindi la scuola, che era l'unico spazio in cui vigeva un diciamo un certo grado di libertà nella società, che era un po' protetto dalle pressioni economiche, degli interessi eccetera, sarà completamente cancellata e si ritornerà appunto a una scuola di classe, dove solo alcune scuole funzioneranno e dove andrà la futura classe dirigente, e il resto saranno al massimo preparati per andare a fare i lavori, magari quei lavori di bassa tecnologia, come appunto camerieri o artigiani o cose del genere, e credo che questo pure insomma sia un aspetto che possa interessare gli ascoltatori sì. della radio, insomma. Sì, infatti volevo dire questo. Mi vengono in mente due cose mentre parlavi. Una è che in effetti la scuola, che qualche decennio fa comunque rappresentava, diciamo, un ascensore sociale, cioè i figli dei poveri, degli operai potevano andare a scuola e fare tutte le scuole, esatto, no? E aspirare a qualcosa di più. E ultimamente questa cosa sta ritornando un po' indietro, come dicevi tu, e quindi attualmente certo, questa cosa che già era rispetto ad altri paesi d'Europa è modesta, questa mobilità sociale, si bloccherà completamente, ma non solo, ma quei figli degli operai che frequentavano gli istituti tecnici e poi magari andavano all'università sono stati gli stessi che hanno fatto il movimento del 68 fino al 77, diciamo, e saranno completamente cacciati da questa buona scuola renziana, diciamo. Questo volevo sottolineare. Oppure serviranno, e ovviamente serviranno a diventare, no, una manodopera a basso costo, se non costo zero, come peraltro anche il DDL Renzi prevede per, no? Vanno tutti a lavorare gratis all'Expo. All'Expo, sì, ma anche, no, sono previste quante? 400 ore, comunque i tirocinei previsti per gli studenti. Certo, già è un inquadramento allo sfruttamento, a un'accettazione dello sfruttamento futuro, ma non so, appunto, ma l'università ormai diventerà una chimera, mentre quelli della mia generazione, anche se venivano da famiglie operaie, appunto avevano i genitori avevano questa possibilità, per alcuni almeno. Ora, sia dal punto di vista economico, per come funziona il sistema, sarà sempre più quasi impossibile per un figlio di lavoratori arrivare alla laurea, Sì, no, infatti l'obiettivo è questo, quindi questo disegno di legge è funzionale a questo meccanismo. Sì, colpisce proprio la società nella sua interezza, Per questo credo che sia decisivo, come dicevamo qui in studio, coinvolgere le famiglie, non soltanto i lavoratori e le lavoratrici. La scuola appartiene anche a chi lavora, no, dentro. Io direi di più, dovrebbero sentirsi coinvolti anche quei movimenti che hanno lottato per l'acqua, perché anche qui è una decisione presa, per esempio questa della privatizzazione della scuola pubblica, presa, io ricordo, a Lisbona, che è un tentativo da parte degli interessi privati di allargare il campo del profitto, fare anche dell'educazione appunto hanno fatto dell'acqua, come vogliono fare per la sanità, un nuovo campo, una nuova miniera per il profitto privato, c'è anche chiaramente aspetto, e proprio cambia il ruolo della scuola nella società, in questo modo, ecco. Sì, grazie, allora ti ringraziamo. Grazie, e continuo ad ascoltarvi con la radio, ok? Grazie ciao, mille, ciao. E appunto per questo dicevo, tra l'altro, come ciliegina sulla torta, è che chi è che sta ascoltando, chi ha ascoltato Renzi in questi mesi per tirar fuori questo obbrobrio, questo orrore di disegno di legge? Beh, non certo come si vantano, no, la più grande consultazione europea mai fatta sulla scuola, la buona scuola, il sito, i milioni di contatti e i contributi. In realtà il peso dei contributi è molto molto diverso, quindi noi abbiamo trovato i documenti che abbiamo pubblicato sul sito, ripeto, Ora di Buco, noblogs.org, è di associazioni che rispondono a questo nome: Abete, Cipolletta, Romano, Berlinguer, De Mauro, Fisichella, Pane Bianco, Anselmi, De Bortoli, Ferrara, Confalonieri, Tronchetti Provera e la famiglia Agnelli. Sono i suggerimenti sulla buona scuola di associazione 3L e Fondazione Agnelli, che ci dicono cosa fare, quindi dicono cosa andiamo a leggere direttamente. Gli insegnanti non devono più essere un pubblico impiego, non della pubblica amministrazione, ma devono diventare dei liberi professionisti, perché, come dicono loro, la dignità dei docenti è questa. In realtà dietro si nasconde soltanto il fatto che puoi chiedere qualsiasi cosa a questi lavoratori, e addirittura, leggo, un docente può accettare di lavorare per 30 ore frontali se lo desidera per qualche anno. Altro, la legislazione sociale è quella sulle malattie, sugli handicap, no? Quella che per anni era stato il vanto dell'Italia, siamo una punta avanzata. Beh, rivederla tutta, perché questa, dietro di questa si nasconde, no, questa micro, la chiamano loro una micro, un micro assenteismo diffuso. Beh, diciamo, Renzi sta ascoltando questi, quindi quando lui si risponde all'indizione di questo sciopero con la scuola e delle famiglie, va completato la scuola della famiglia Agnelli, la scuola pubblica è della famiglia Abete, della famiglia Confalonieri, di Marchionne sostanzialmente. Questo è l'impianto Marchionne, questo è, diciamo che sulla scuola si sta sperimentando l'ingresso di tutta quella schifezza che sta dietro il Jobs Act anche nel pubblico impiego. Quindi è una battaglia che, come si diceva il nostro interlocutore, deve essere innanzitutto diffusa, compresa anche a chi non è dentro la scuola ma a cura tiene ai diritti sostanzialmente, certo. No? E va bene, senti, allora mettiamo ancora un po' di musica e poi andiamo su un'altra parte, su tutti questi scioperi che ci sono, e ci orientiamo un attimo. Allora riprendiamo la linea, questa è l'ora di buco, la trasmissione di Onda Rossa sulla scuola, e abbiamo al telefono Barbara. Pronto? Sì, ciao, buonasera. Ciao Barbara, buonasera, benvenuta. Volevamo coinvolgerti nella discussione che stiamo facendo sulla il disegno di legge Renzi sulla scuola e su le iniziative di lotta, di opposizione a questo DDL. Volevamo sapere da te, che fai parte dell'USB, un po' come dobbiamo orientarci, perché a scuola i colleghi, le colleghe dicono vabbè, faremo lo sciopero del 5, ma in realtà io non so cosa fare, visto che ci sono diversi scioperi uno dietro l'altro. Io volevo sapere qualcosa, cosa pensi tu del fatto che ci sono sindacati generalmente di base che contrastano senza se, senza ma, questo disegno di legge, ed altri, quelli che appunto non fanno sciopero da 7 anni, per dirla così, che invece in realtà, a mio avviso, a nostro avviso, vogliono soltanto con questo sciopero provare a contare un pochino di più, ma sedersi sul tavolo e trattare e magari conquistare qualche piccola come dire, concessione che viene dal sire, dal re, però poi dopo far passare tutto. Tu cosa pensi? Io condivido esattamente questa analisi, nel senso che stiamo di nuovo vedendo un film che noi abbiamo già visto nella scuola appunto 7 anni fa, quando CDL, CISL e UIL, a differenza del segnalismo di base, scioperarono un giorno dopo l'approvazione del maestro unico, quella Gelmini. Ma questo è un fatto che penso che voi abbiate già ricordato pure, tra l'altro con forze che già si erano preparate e poi firmarono vari accordi tremendi proprio su questo, dando il via libero di fatto a tutti i decreti applicativi poi della Gelmini. E noi stiamo rivivendo un po' questo film. L'unica differenza è che appunto questa volta abbiamo praticamente, diciamo, un dibattito vero che si sta sviluppando nelle scuole, dove praticamente si sta aprendo, diciamo, si stanno aprendo due fronti, appunto chi sciopera il 24 di aprile e chi lo farò, lo farà il 5. Ora noi il 24 abbiamo proclamato questo sciopero della scuola senza nessuna pretesa di fare i primi della classe, con un appello però che andava a tutte le forze che non fossero appunto le forze CGIL, CISL e UIL, insomma i firmatari, noi li chiamiamo i collaborazionisti di questo sistema, insomma di questo sistema sindacale, diciamo, che in Italia c'è in questo momento di monopolio sindacale, proprio perché abbiamo subito ravvisato la necessità di smarcare, di cominciare a dare un segnale chiaro ai lavoratori, per cui da una parte c'è chi non si vende, chi lotta appunto a viso aperto e non semplicemente senza compromessi, perché noi il tavolo lo andiamo pure cerchiando. Il problema è appunto di avere una chiarezza di interessi e di intenti, cioè, perché poi i tavoli si chiedono, si ottengono e poi magari si rivoltano pure nel momento in cui poi le proposte non soddisfano. Però insomma abbiamo mandato una lettera a tutti i sindacati, diciamo, di base, conflittuali, quelli che stavano fuori, diciamo, dal circo dei servi del governo. E diciamo che la risposta è venuta da molte sigle sindacali. Noi abbiamo 8 sigle sindacali. Sì, sì, l'abbiamo ripetuto. Purtroppo abbiamo una grande assenza, che sinceramente ci rammarica molto, quella dei Cobas, che non hanno aderito a questa iniziativa, ma nemmeno non hanno aderito nemmeno a un momento di dibattito. Insomma, questo è veramente la cosa più spiacevole, perché sai, poi uno si confronta, può avere opinioni diverse. Però insomma abbiamo detto questa cosa, hanno risposto l'ANIF, l'Unicobas, la CUB, lo SLAI, insomma abbiamo ricevuto diverse adesioni e abbiamo proclamato questo sciopero, diciamo, già con parecchio anticipo, appena praticamente si è avuta notizia di questo decreto. Ma con subito una linea chiara: noi, per noi questo decreto è inemendabile, non c'è niente da migliorare, cioè non ci sta, e questo è l'elemento fondamentale di piattaforma che ci distingue intanto dal 5. Sì. Ok? Cioè noi non pensiamo che si possa migliorare questo decreto, non è che c'è possibilità di aggiustamento, non è che si levano per esempio il famoso articolo 12 rispetto alle modalità di assunzione del personale, no? Oppure se fanno qualche concessione, che ne so, per esempio sembra che si parli dentro le stanze del PD di revocare la delega sugli organismi, sui decreti delegati, insomma, se trovano un aggiustamento per noi va bene. Perché qui il problema vero è che cosa significa questo disegno di legge. Questo disegno di legge è la trasformazione genetica della scuola italiana, dalla scuola della Repubblica, dalla scuola del diritto all'istruzione, all'educazione per tutti, alla scuola dei padroni. Cioè non è che c'è altra definizione che si può dare. È evidente che qui c'è appunto un rapporto di forza tra le classi sociali, che è tutta a scapito dei lavoratori in questo momento, e che vede l'arroganza di chi ha portato a fallimento il paese, una crisi economica che sta mettendo morti dagli immigrati che appunto non riescono ad arrivare sulle nostre terre, a tanti tantissimi giovani che qui non trovano lavoro e fanno a loro volta gli immigrati. Io ora sto in Calabria, ma insomma una terra che ha visto il più alto numero di licenziamenti, cioè il più grande licenziamento di massa, cioè 6.000 lavoratori della scuola in pochissimi anni sono stati cacciati qui dalla scuola calabrese, che significa massacrare proprio una popolazione che non ha altre prospettive, perché qui non ci sono altri settori produttivi se non l'andrangheta, per cui insomma, cioè, diciamo che dopo la scuola c'è l'andrangheta, per cui diciamo questa è l'alternativa che lasciano ai giovani calabresi. Per cui ecco, diciamo, questo intanto è il problema di fondo, cioè che cosa serve questo DL, che cosa segnerà nella storia del nostro sistema di istruzione ed educativo, e su questo avere le idee chiare, cioè da che parte stare. O stai con i lavoratori e con i loro figli e cominci a recuperare la necessità di riconquistare la scuola pubblica statale, che non c'è più in queste condizioni, perché così stanno facendo quale operazione? Non semplicemente finanziano, diciamo, il privato esterno alla scuola pubblica, che addirittura con gli sgravi fiscali alle famiglie che segnano, ma tu fai funzionare la scuola pubblica statale come se fosse privata, per cui introduci le fondazioni di tipo privato, per cui fai tutto il discorso dell'apprendistato con l'alternanza scuola-lavoro, instauri un rapporto gerarchico, diciamo, con i dirigenti, che è di tipo fascista e non c'è altro modo di definirlo, e fai la selezione personale rispetto ai gusti di questo o quel dirigente, e soprattutto rispetto a un sistema che loro chiamano di meritocrazia. Di fatto stai con i quattro soldi che stanno dando alla scuola, stai semplicemente garantendo gli staff, diciamo, dei dirigenti e dei vari capo che noi avremo dentro le scuole. Nel frattempo trasformano i lavoratori della scuola in pedine da spostare come vogliono, con una didattica che viene controllata direttamente dai dirigenti, finalizzata a che cosa? Ad addestrare i lavoratori, i futuri lavoratori. Cioè, questo è il fatto. Pensando che la maggioranza dei nostri figli, la maggioranza dei nostri studenti probabilmente rischierà veramente di non poter accedere più all'istruzione. I tassi d'abbandono sono altissimi e sono preoccupanti e non si possono risolvere con i convegni pagati e finanziati dall'Unione Europea che chiacchierano su questo problema invece di aprire scuole, di ampliare l'orario di servizio, insomma di scuola, perché l'hanno tagliato, di fare in modo che le lezioni vengano svolte effettivamente, perché qui abbiamo appunto ore di buco una dietro l'altra. Non so se la scelta del vostro nome è proprio relativa. Sì, no, a noi ne basta scuola. Ne bastava una per discutere tra di noi a scuola, che cioè, il confronto a scuola ormai è quasi ridotto al minimo, certo. E quindi diciamo un'ora di buco andava pure bene per confrontarci. Senti, io ti vorrei fare l'ultima domanda, che è un po' sul futuro, no? Il quadro mi pare molto chiaro e noi lo condividiamo. La radio ha questa impostazione e chi ci lavora, i redattori e le redattrici, in realtà, sperimentando a scuola quello che sta succedendo, vedono proprio questo. Ma il futuro, cioè lo sciopero, quindi invitiamo tutti ad andare alle 10 venerdì 24 alla manifestazione e a tutte le altre iniziative che sono state ricordate, però come facciamo a contrastare, a raccontare questo quadro che è molto chiaro nelle nostre menti agli altri, sia ai colleghi, le colleghe, chi lavora dentro la scuola, agli studenti, le studentesse, le famiglie, contro questo fuoco di fila mediatico che Renzi sa sfruttare alla grande. Come fare? Questo tanto mi gusta avere una visione, e questo ce lo possiamo dire tra chi diciamo è un po' più cosciente, una visione che qui non c'è la presa del palazzo d'inverno in un giorno, non è uno sciopero, certo, che butterà infatti, giù questa infatti situazione. Qui noi ci abbiamo sicuramente da avere molto tempo. Abbiamo visto in Grecia, no? Cioè noi in Grecia abbiamo i nostri compagni del FISE, che è l'Organizzazione Mondiale degli Insegnanti, ma abbiamo il PAME, abbiamo i nostri compagni che lottano ormai di questa crisi economica da tanto tempo, con conseguenze gravissime su quella popolazione. Abbiamo visto gli scioperi che hanno fatti tantissimi, eppure diciamo la situazione non è che sta, no? Soprattutto perché stanno soli, perché fanno questa lotta e non c'è un contesto europeo di lotta, perché intanto questa per esempio è la visione che dovremmo avere. Per cui visione di costruzione nel tempo, ripresa di coscienza di sé, cioè noi qui dobbiamo dircela chiaramente, cari studenti e cari colleghi insegnanti, qui se non parliamo dei nostri interessi, cioè qual è il nostro interesse, intanto pure materiale, lo stipendio, cioè non ci può stare senza stipendio, i posti di lavoro, se non si leva la Fornero, non si noi abbiamo fatto un conto dal 2004 al 2015, c'è stato 350.000 pensionamenti, c'è stato un aumento di 200.000 studenti, noi oggi legittimamente possiamo chiedere un piano di assunzioni per la scuola, sì, che è almeno di 350.000 posti, di cui 150.000 saranno i precari che stanno ora in attività, ma io dico tutti i precari, compresi quelli esternalizzati, quelli che fanno i lavori degli LSU per gli ADA, quelli che stanno a fare gli assistenti specialistici, tutti possono entrare dentro e essere stabilizzati, e dall'altra parte avere un piano di nuovi posti di lavoro, di almeno un altri 200.000 posti di lavoro nuovi, significa nuova occupazione per i nostri figli, quelli che hanno studiato e non hanno più la possibilità di accedere a un posto di lavoro, come è quello più bellissimo del mondo, che posso dirlo, che è quello dell'insegnamento, o quello di vivere in mezzo ai giovani. Per cui questa è la linea intanto di rivendicazione, intanto di prendere un'ottica, di parlare dei propri interessi, sapendo che non fa schifo nemmeno di riparlare di soldi e di posti di lavoro, perché la scuola è fatta, lui dice non è fatta solo di sindacato, no, è fatta anche di posti di lavoro, di soldi, perché ci servono per poter garantire il diritto fondamentale all'istruzione, all'educazione, che è il primo bene per una civiltà, inutile che lo ripetiamo, insomma, per una società che insomma si dice essere civile, e vediamo la barbarie che invece stanno facendo questi signori. Per cui intanto quest'ottica. Poi io dico una cosa rispetto a noi: siamo stati molto criticati perché abbiamo aperto le nostre alleanze anche a forze sindacali molto diverse da noi. Io lo dico con molta chiarezza, io sto con chi lotta, chi sta in contrapposizione con questo sistema. Io non c'ho nessuna bandierina da difendermi, va bene? Se non nel posto di lavoro e come lavoratrice e come genitore, la prospettiva del mio figlio è un posto in questa società degno di questo nome. Per cui noi pensiamo che va costruito un fronte di lavoratori, di organizzazioni sindacali, di organizzazioni di movimento, che abbia con chiarezza la spartiacque con questi, io vabbè, di traditori è di poco, perché ormai questi sono collaborazionisti con questo sistema. La buona scuola, la CGIL l'ha già firmato a Trento con un accordo che o ritira, va bene, il taglio degli scatti ai precari, l'hanno già firmato 2 anni fa, non la CGIL, in quel caso furono la UIL e la CISL. Questi signori hanno già fatto, io sto parlando delle cose più recenti, vogliamo parlare del diritto di assemblea, di parola nella scuola, cosa hanno fatto, delle libertà sindacali. Allora, io noi stiamo facendo le assemblee adesso a scuola perché abbiamo le elezioni del Consiglio Superiore dell'Istruzione. Però facciamo le assemblee per questo motivo, perché noi non abbiamo diritto, ma i lavoratori sì, no, non ma questo lo sappiamo. Forse è bene ricordarlo, nelle scuole soltanto i 5 sindacati che abbiamo ricordato hanno diritto di indire assemblee, quindi di parole, e quindi diciamo è il meccanismo che alimenta se stesso, e diciamo altro che Parlamento italiano. E volevo, ci arriva una domanda per te e anche per la nostra interlocutrice qui in studio, ma ci sarebbero i tempi tecnici per uno sciopero confederale dopo questi sciopero? Siamo confederali, sì. Non nel senso confederale. No, un fronte, no, quello che dicevi te, il fronte diciamo delle compresa CGIL, CISL, UIL, oppure no, no, in che senso confederale? Sì, no, non lo so, nel senso di tutte le categorie, pubblico e privato? Sì. Beh, i tempi, qui c'è il problema, gli scioperi non si creano a tavolino, certo. Si creano sulle vertenze precise. Qui noi nel nostro paese abbiamo il discorso sul job act, USB ha fatto già a ottobre uno sciopero confederale, noi abbiamo fatto anche come scuola proprio contro il job act, contro intanto gli annunci fatti da Renzi all'epoca, e sicuramente ce ne sarebbe bisogno di uno al giorno, però gli scioperi non si fanno appunto semplicemente con la nostra senso di volontà. Certo, ci sono pure scioperi politici che vanno fatti, però insomma, per farli riuscire devono stare nelle corde dei lavoratori, vanno costruiti, considerando che appunto in questo periodo di crisi, cioè lo sciopero diventa un'arma molto spesso spuntata se non certo. È stata utilizzata bene. Per cui certo, per noi la nostra, noi per esempio lo sciopero del 24, noi abbiamo viene programmato per esempio anche dal lavoro privato, del USB che sta negli LSU. In tante città gli enti locali, tutto il servizio scuole degli enti locali, cioè dei comuni, perché c'è tutto il servizio sì. Delle scuole, dei nidi, no? Dell'infanzia, per esempio, hanno aderito allo sciopero del 24, hanno fatto loro la data, però diciamo stiamo parlando di realtà che hanno veramente il problema, lo sentono, stanno vicino e no? Diciamo, l'hanno proclamato, non li possiamo inventare a tavolino, però certo che noi lavoriamo e guardiamo sempre a quell'occhio lì, perché qui il problema è il job act, qui il problema è quell'Expo che fa schifo. Oh ragazzi, ricordiamoci, all'Expo CGIL, CISL e UIL hanno firmato un accordo per il lavoro volontario gratuito. Cioè, se dobbiamo fare, per esempio, chi ci dice fate l'unità con questi, ma se non viene un ritiro, almeno di quello, cioè si può andare a scioperare con forze sindacali che proclamano la disponibilità a fare il lavoro volontario gratuito? Con quello che cosa significa l'Expo in questo momento in Italia, quando i soldi per l'Expo furono tolti, io me lo ricordo, nel 2008 quando fu fatto il piano Gelmini, 1.400.000.000 che furono tolti all'università andarono dritti dentro l'Expo, e noi che facciamo? Adesso dovremmo andare a scioperare con questi signori che hanno firmato il lavoro gratuito per l'Expo, cioè questi sono i termini, facessero qualcosa di unitario pure loro. Pantaleo ha fatto un appello l'altro giorno dicendo i sindacati di base, qualcuno ci ha chiamato sparpagliati, facessero, riflettessero sul caso di fare l'unità, riflettessero loro, se ritirano la firma per l'Expo, USB, io lo dico subito, USB aderisce al 5, lo dico subito qua, ma facessero questo gesto, perché se non fanno manco questo, cioè scusate, ma non ci sono proprio i margini per poter andare a braccetto con chi ci massacra. Dopodiché il futuro, mi sembra che la domanda, scusa se sono molto lunga, vado a chiudere, il futuro. Noi pensiamo che noi dobbiamo ricostruire, questo significa ricostruire per esempio per quello che ci riguarda come lavoratori un sindacato vero, bisogna riragionare sull'auto-organizzazione, effettivamente come andare diciamo, fare sintesi delle esperienze passate e ritrovare i motivi e ragioni perché c'è bisogno di sindacato in questo paese, di un sindacato vero, conflittuale, che probabilmente dovrà ricombattersi i propri diritti, i propri rapporti di forza, scuola a scuola, corpo a corpo, con ogni singolo dirigente. Noi lanciamo una sfida, noi siamo sicuri che CGIL, CISL e UIL, e dico anche altre forze sindacali, non saranno adeguate a questa situazione nuova, perché stanno troppo attaccati, appiccicati alle loro poltrone, troppo interessati ai loro soldi, ai loro prebende che si pigliano con i fondi pensione e via dicendo. La sfida dunque è sul futuro. USB sarà piccola adesso, questo fronte sarà, non riuscirà a fare il botto il 24 perché ci stanno facendo di tutto per boicottarlo, ma state sicuri che USB nel futuro ci sarà. Qualcun altro invece sarà costretto da gigante, come un vecchio elefante, a crepare sotto i pesi di tutto quello che ha costruito in questi decenni. Questa cosa io la scrivo, poi dopo ci rivediamo fra 10 anni, ma io no, sicuramente la costruiremo insieme, insomma, nelle piazze e nelle lotte, perché io sono sicura che i compagni della Onda Rossa si saranno far sentire, no? Ok, sì, raccogliamo questa sfida. Senti, ti ringraziamo, certo. E ci vediamo, certo, venerdì, ciao. Certo, un abbraccio a tutti, ciao, buon lavoro. Allora, siamo quasi in conclusione, vorrei terminare con la nostra ospite che sì, ci ricorda qualcosa. Ricordare lo sciopero il 24 aprile, a cui anche noi autoconvocati della scuola parteciperemo alle 10.30 a Piazza della Repubblica, e poi tutte le altre iniziative. Probabilmente gli studenti il 12 maggio sciopereranno e noi saremo anche con loro per non lasciarli soli, perché la scuola è innanzitutto degli giovani e del futuro, e quindi insomma... Va bene, sì, quindi penso che sia importante, al di là di tutte le sigle, non lasciare solo gli studenti in piazza. Quindi, se sarà confermato dagli studenti lo sciopero, sì, il 12 maggio, noi sicuramente ci saremo, sì, anche mi con pare loro. Che loro abbiano aderito anche al 5, comunque sì, diciamo la situazione che è abbastanza fluida, diciamo così, su questo fronte, la aggiorneremo nelle prossime puntate, sì, alle quali vi rimandiamo e vi ringraziamo, e un saluto a tutte e tutti. Grazie, ciao. Ciao. Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture.